E allora torniamo in diretta perché dopo non poche fatiche con le schede internazionali per prendere la linea siamo finalmente in collegamento con Simone Pieranni. Pronto? Intanto ci senti? Pronto? Sì, mi sento. Ok, niente, però noi abbiamo dato... Sì, noi ti sentiamo bene. E noi abbiamo appena dato lettura, insomma, del tuo articolo Cina demolizioni forzate. Quello, insomma, che ti volevamo chiedere è di fare un po' una panoramica, nel senso che siamo abituati a pensare qua dall'Italia alla Cina come un paese monolitico dove non c'è spazio per il dissenso e dove il dissenso più o meno non esiste, mentre dai tuoi articoli, insomma, ne emerge un quadro piuttosto diverso, dove il frenetico sviluppo neoliberista apre un sacco di contraddizioni economiche e sociali che spesso esplodono anche in forme di nuove conflittualità. È così? Sì, allora io mi sono perso praticamente quasi tutta la tua domanda, però penso dall'inizio di aver capito. Sì, nel senso esistono forme di conflittualità, ovviamente è un paese che ha un progresso economico talmente imponente che non può naturalmente che portare anche a uno sviluppo poi ineguale, perché stiamo parlando di un paese che tradizionalmente il contadino ha avuto un processo di urbanizzazione crescente, quindi questo ha creato delle fratture molto forti all'interno naturalmente degli strati sociali e della popolazione anche cinese. In particolare le demolizioni forzate costituiscono uno degli aspetti forse più beceri praticamente del processo economico e di urbanizzazione cinese. Tenete presente che nei prossimi 20 anni la Cina costruirà circa 97 aeroporti nuovi, 20 centrali nucleari, una trentina di città completamente nuove, quindi delle zone dove prima abitava gente del comune, antichi insediamenti diciamo popolari, soprattutto nelle zone rurali, vengono costantemente abbattute praticamente dai governi locali per costruire nuovi appartamenti, nuovi uffici o centri commerciali. Si tratta naturalmente di un fenomeno che ha molteplici elementi. Da un lato c'è una speculazione edilizia ed una forza veramente imponente da parte dei costruttori cinesi che non a caso sono i miliardari del paese. Se avete modo, chiunque abbia modo di andare a vedere ad esempio i ricchi cinesi secondo le liste di Very Forbes o di Urun, vedrà che sono quasi tutti impegnati nell'ambito delle costruzioni immobiliari, perché si tratta naturalmente di un business molto forte all'interno del quale si riescono a muovere solo le persone che hanno ganci importanti con ovviamente il Partito Comunista. Un altro elemento di questo fenomeno delle demolizioni è che ogni provincia ed ogni regione ha bisogno diciamo di innalzare praticamente la propria produttività, e costruire nuovi insediamenti fa parte diciamo di uno dei trucchetti che sostanzialmente vengono utilizzati dalle regioni diciamo non per forza quelle centrali, quindi non sto parlando di Pechino e Shanghai, dove comunque sono processi che sono già avvenuti ma negli anni scorsi, ce ne sono ancora tutte in corso ma sono più lievi, mentre invece ci sono alcune zone in cui viene praticamente raso al suolo tutto. In teoria esiste una legge che... Mi sentite? Sì, ti sentiamo bene. Ok, in teoria esiste una legge in Cina che è stata anche sottolineata ultimamente proprio dal centro, diciamo, da Pechino, che ha ultimamente molti problemi a far sì che quello che viene deciso praticamente nel cuore dello Stato riesca poi ad essere messo in pratica dalle tante province e regioni lontane, dove non ci può essere un controllo forte come nelle grandi città e spesso i funzionari locali danno vita a tutto un giro di soldi, di corruzione, che naturalmente poi fa venire anche meno quelli che sono, come dire, gli appigli legislativi che poi questa povera gente che viene scacciata dai loro posti trova diciamo a mettere di fronte al fatto compiuto. In realtà stiamo parlando di un processo che vede coinvolti anche funzionari della polizia, funzionari locali, in alcuni casi vengono arruolati delle vere e proprie squadracce praticamente di gentaglia che va direttamente a convincere con le buone e con le cattive la gente ad andarsene. Ci sono dei focolai di denuncia, è un fenomeno che è diventato molto famoso, per dire, alleggerire un po' anche, è uscito in Cina qualche anno fa addirittura un videogioco, all'interno nel quale praticamente il protagonista deve difendere una famiglia che viene attaccata affinché venga demolita la sua casa. Nel gioco si può vincere, nella realtà invece purtroppo questa gente che deve costantemente abbandonare la propria casa. Come dicevo, c'è una legge che stabilisce che nel momento in cui viene demolita la casa venga dato un altro alloggio e venga anche pagato praticamente l'alloggio che è stato demolito. In realtà, come dicevo prima, moltissimi dei funzionari locali o soprattutto i costruttori convincono spesso con le cattive, magari facendo licenziare le persone, andando a menare, prendendo le proprie casa, e spesso e volentieri non hanno neanche i soldi che gli dovrebbero dare, perché diciamo da Pechino ad arrivare praticamente al paesino nella regione magari nord occidentale della Cina c'è troppo spazio e si creano delle sacche praticamente di corruzione all'interno dei quali i dirigenti cinesi poi locali fanno un po' quello che vogliono. Senti una cosa, noi l'ultima... mi senti? Pronto, mi senti? Sì. Ti dicevo, l'ultima volta che l'ultima volta che abbiamo sentito parlare, insomma, di qualche forma di insubordinazione in Cina era a febbraio scorso, quando c'è stato un tentativo di emulazione di quelle che sono state rivolte arabe, col tentativo di alcuni blogger cinesi di lanciare anche tra Pechino e Shanghai, insomma, nelle più grandi città, delle adunate pubbliche. Tentativo che però mi pare si possa dire a distanza di mesi è miseramente fallito. Esiste un legame tra quel tentativo, insomma, di insubordinazione e queste forme di resistenza al neoliberismo più localizzate, più territorializzate? Ma guarda, sinceramente è molto difficile riuscire a leggere i fatti cinesi con un'ottica, diciamo, nostra, o con cui siamo abituati a vedere anche noi gli scontri sociali in Occidente. In realtà non c'è nessun legame, ma non perché non lo si voglia o perché non possa esistere, ma perché comunque in questo momento il potere, diciamo, del Partito Comunista, di controllo e di iperattenzione a che non succeda niente, è troppo forte. E stiamo parlando soprattutto di minoranze che non riescono neanche numericamente ad essere proprio minimamente visibili anche all'interno di una città, perché i fatti a cui tu ti riferivi erano quelle che sono state chiamate qua le paventate rivolte del Gelsomino, che in realtà hanno mosso in città da 14-15 milioni di abitanti non più di un centinaio di persone. E un centinaio di persone che si è mossa la prima volta in cui era stata effettuata una convocazione, a fronte di circa 300 arresti sempre a Pechino. Quindi, come vedi, c'è una proporzione molto forte tra chi tenta di organizzare qualcosa e l'immediata repressione che segue da parte del governo cinese. I fatti di cui stiamo parlando, cioè quelli della demolizione privata, sono fatti totalmente scevri da ogni tipo di ideologia politica o di resistenza, diciamo, al governo, ma sono semplicemente guerre di poveri che si vedono praticamente togliere l'unica possibilità che hanno di vivere una vita degna, che è praticamente la casa, perché stiamo parlando di contadini, vivono sulle spalle dei figli che sono andati nelle grandi città a farsi praticamente il culo, scusate il termine, per costruire le grandi città cinesi. È uscito poco tempo fa un servizio su una rivista locale, sì, proprio sul fatto che nelle campagne dove avvengono molte di queste demolizioni praticamente non ci sono giovani, e stiamo quindi parlando di donne, di vecchie, che hanno anche pochi strumenti per opporsi praticamente agli atti un po' agli atti, diciamo, di arroganza e prepotenza da parte di questi signorotti locali. Non c'è nessuna connessione tra la ruralità, tra la realtà rurale e quella, diciamo, urbana in Cina. Sono due mondi completamente diversi, spesso si ignorano, se non addirittura si detestano l'uno con l'altro. È un paese nel quale non esiste in questo momento qua la possibilità di creare alcun tipo, diciamo, di legame tra fronde, chiamiamole così, diverse. Tanto è vero che anche quando ci sono delle proteste più associate al mondo del lavoro, ci sono stati i tassisti, c'erano stati l'anno scorso le proteste nelle grandi fabbriche del polmone economico della Cina, del sud-est cinese, non c'è stata praticamente nessuna connessione con dei movimenti cittadini. Stiamo inoltre parlando, ritornando così un po' velocemente alla questione del Gelsomino, ad un invito che era partito tanto su internet attraverso un sito di dissidenti cinesi negli Stati Uniti, quindi un ulteriore elemento di difficoltà a far sì che questo eventualmente potesse funzionare. Qua in Cina stiamo parlando comunque di minoranze allucinanti. Io vi posso garantire che quando ho vinto il premio Nobel in Cina non lo conosceva praticamente nessuno, e anche lo stesso Weiwei, che è forse considerato l'artista e l'attivista cinese più famoso, comunque è un po' più noto di Liu Xiaobo, ma non si può dire che sia proprio sulla bocca di tutti i cinesi. Senti, io faccio un'ultima domanda prima di salutarti e di ringraziarti. Insomma, noi siamo abituati a pensare la Cina all'interno di questa crisi economica, insomma, come il paese che sta facendo la parte del leone, cioè quello che più di tutti si sta arricchendo e migliorando. Però, insomma, leggendo anche gli articoli, insomma, che escono su China Files, ci rendiamo conto poi di quello che dici prima te, insomma, che questa roba qua è vera forse per i grandi miliardari, ma che in realtà c'è un rendiamo prezzo... conto, scusa? Che questa roba, insomma, è vera per i grandi miliardari. Mi senti? Ti stavo dicendo che poi questo arricchimento economico è vero per una parte molto ristretta della popolazione, mentre c'è un effetto della crisi anche in Cina per quello che riguarda le fasce della popolazione negli ultimi due anni, è così? Più che collegata alla crisi economica, credo che sia proprio un processo storico che si sta vivendo la Cina Allora, intanto ricordiamo che questi in 30 anni hanno tolto circa 350-400 milioni dalla soglia della povertà, facendoli diventare, diciamo, una sorta di classe media. Quindi stiamo parlando di numeri allucinanti, cioè di cose che di solito avvengono nell'arco di secoli, che qui sono avvenuti in 30 anni. È naturale che questo sia un processo che va a cambiare enormemente la socialità cinese e porta anche a delle discrepanze molto forti, porta a dei conflitti anche naturalmente, e ad uno sviluppo ineguale a cui segue che naturalmente in un sistema in cui c'è un'economia che viene controllata praticamente dal Partito Comunista, che all'interno di tutte le aziende statali, anche quelle quotate in borsa a New York, per dire a Wall Street, eccetera, è chiaro che si crea uno sviluppo in cui in pochi continuano ad avere sempre di più rispetto ad una massa che invece è sempre più distante. In realtà bisogna capire se la Cina riesce il giochino che stanno tentando di fare, cioè tenere molto sulla questione della rivalutazione dello yuan, in modo da non avere problemi a continuare a essere un'economia dell'esportazione, investire tantissimo nella ricerca e nello sviluppo per creare anche un mercato interno in grado di dipendere sempre meno dalle esportazioni e di creare quella classe media che dovrebbe fare proprio da cuscinetto, diciamo, tra i super ricchi e chi invece piano piano comincia a non avere più niente. Bisogna capire se questo gioco qua di regge, e finora, nonostante appunto gli articoli in cui ne mettiamo in evidenza anche le contraddizioni, perché poi il bello di stare qua e anche vedere, no, è un po' come essere all'interno di un'Inghilterra durante la rivoluzione industriale, in cui vedi un po' tutti gli aspetti di questo grande processo all'interno del quale ci sono naturalmente le contraddizioni, ma in generale da un punto di vista proprio della tenuta, qui i soldi continuano a girare, i cinesi accedono sempre più beni di consumo, e non solo le fasce per forza quelle dei miliardari, ma anche appunto questa classe media che sta crescendo. Bisogna capire poi invece politicamente questo aumento della classe media come si convertirà in obbedienza sociale, cioè se cioè questa classe media che cresce economicamente a un certo punto vorrà anche una fetta della parte politica o meno. Queste sono un po' le partite che la Cina si va a giocare, ma in questo momento se le gioca indipendentemente dalla crisi economica. Va bene, noi ti ringraziamo, sei stato chiarissimo, ti ringraziamo ancora il tempo perché ci hai dedicato e ci andiamo a risentire magari nelle prossime settimane. Grazie a voi. Ciao ciao. Spero che si sia sentito bene. Sì, si è sentito bene.